Radio 24 presenta Destini incrociati. Destini incrociati. Un programma di Giacomo Zito. Dopo la preghiera di mezzogiorno è iniziata questa quarta giornata di protesta che nella capitale è degenerata subito in violenti scontri. La polizia ha usato acqua, lacrimogene e pallottole di gomma contro i manifestanti. Pesante il bilancio. Solo nella capitale sono almeno 4 le vittime finora, più di 400 i feriti e altrettante le persone arrestate. In manette anche i giornalisti stranieri. È il 25 gennaio 2011. A Il Cairo quasi 20.000 egiziani si riversano nella piazza centrale della città. Sono pacifici, ma sono anche molto arrabbiati, stanchi di una dittatura che ha spento ogni speranza, lasciandoli frustrati e incuranti del futuro. La sommossa che in breve tempo porta alla destituzione del presidente Hosni Mubarak al potere da 30 anni è frutto di questa frustrazione, dovuta non solo alla povertà reale, ma soprattutto a una povertà di intenti e di prospettive che lo scrittore egiziano Ala al-Aswani, per tutto il tempo in piazza al fianco dei manifestanti, racconta in un intervento al Festival della Scrittura di Mantova. Si giunge a un momento che io definirei il momento della rivoluzione, è un momento in cui i sentimenti giungono al colmo e quindi a quel punto si è pronti per un cambiamento. Le persone sono talmente frustrate che vogliono agire per il cambiamento anche a costo della propria vita, perché dicono: io voglio avere la libertà per i miei figli. Piazza Tahrir è il cuore della città. Quando gli egiziani hanno voglia, necessità, bisogno di libertà, vanno in Piazza Tahrir. Questo immenso spazio, in cui affaccia il museo egizio, una volta si chiamava Piazza Ismailia. Qui si sono consumati tutti i grandi eventi del paese, ma è per celebrare il più importante di tutti, quello della rivoluzione che cambiò il corso della storia d'Egitto, che la piazza ha cambiato nome, diventando Piazza della Liberazione, in arabo Tahrir, appunto. Oggi quella piazza è testimone di una nuova primavera portata avanti dai giovani. I vecchi egiziani non possono non ritornare al ricordo dei giorni di gioia e felicità che animavano quella piazza quasi 60 anni fa. La rivoluzione, cari fratelli, è stata preparata e ha avuto inizio per reagire contro la corruzione di questo paese. Noi ufficiali dell'esercito abbiamo sempre pensato a voi, cercando di lavorare con la gente e per i poveri, per alleviare la loro misera condizione. Queste parole, che denunciano corruzione e miseria, esattamente come quelle dei manifestanti della rivoluzione dell'Egitto odierno, sono state pronunciate dal padre della patria egiziana quasi 60 anni fa, durante la rivoluzione del 1952, che portò al dissolvimento della monarchia di Re Farouk e alla proclamazione della Repubblica. Il suo nome è ancora oggi caro a tutti gli egiziani. Gamal Abdel Nasser. Gamal Abdel Nasser. Nell'indistinto mondo politico arabo sopravvissuto alla Seconda Guerra Mondiale, un mondo ancora sotto il dominio del colonialismo occidentale, dove le figure di rilievo sono quasi non esistenti o asservite al potere straniero, la personalità di Nasser si impone trasformandolo nel primo vero uomo politico arabo dell'età moderna. Carismatico, intelligente, orgoglioso, bello, Nasser ha sfidato il potere occidentale con fermezza, portando l'Egitto a un ruolo centrale nella politica del suo tempo e lui stesso ad essere il referente rispettato e ascoltato da tutte le potenze occidentali, restituendo dignità al suo popolo dopo anni di influenze straniere. Io, Gamal Abdel Nasser, vengo da una famiglia povera e rimarrò povero fino al giorno della mia morte. In questa terra. Durante i giorni convulsi della rivoluzione del 1952, Nasser rassicura il suo popolo nei suoi discorsi alla piazza. Non sarà l'ennesimo sfruttatore della sua terra, non si trasformerà in un indolente pascià con a cuore solo gli interessi di famiglia. Vi assicuro, con tutte le mie forze, che lavoreremo per voi e solo per voi, seguendo il sentiero dei buoni principi e degli ideali elevati. E non saremo tentati dal denaro e dalle comodità. Del resto, Nasser conosce la fragilità delle cose umane fin da piccolo. Gamal Abdel Nasser nasce il 15 gennaio 1918 in un villaggio vicino ad Alessandria d'Egitto, nel grande delta del Nilo. La sua è una terra generosa, ricca e colta, ma il piccolo Gamal non fa in tempo a cogliere tutto ciò. Il padre, impiegato alle poste, cambia spesso paese per lavoro e così la famiglia che lo segue a ogni trasferimento. Oltre a Gamal, l'amatissima madre Fatima e i due fratelli. Ma a 6 anni il piccolo viene mandato al Cairo dallo zio paterno per studiare. Dolorosamente diviso dalla famiglia, l'unica gioia di Gamal sono le lettere che la madre gli spedisce quasi ogni giorno. Lettere semplici, ma piene d'amore, di piccoli racconti delle faccende quotidiane, impressioni ed emozioni che fanno sentire il bambino ancora avvolto dall'amore materno. Le rare vacanze in cui torna a casa sono tutte trascorse con Fatima, che aiuta nelle faccende e che segue nelle sue passeggiate, durante le quali i due parlano fitto fitto di sogni e di speranze. Ma improvvisamente, 2 anni dopo l'arrivo del giovane Nasser al Cairo, nella primavera del 26, le lettere tanto attese cessano di arrivare. Gamal è sorpreso, ma sa anche che la mamma aspetta un altro fratellino e avrà senz'altro il suo bel da fare. Non resta che attendere le vacanze. Quando fa rientro alla casa paterna, però, trova ad accoglierlo solo il pianto del neonato e nessuna voce femminile. Fatima è morta dando alla luce il 4° figlio e nessuno ha avuto il coraggio di avvertire Gamal. Per il ragazzino è un dolore immenso, peggiorato poco dopo dalla decisione del padre di sposarsi nuovamente, senza che sia trascorso neppure 1 anno dalla morte della madre. La morte di Fatima determina nuovi cambiamenti e instabilità nella vita di Gamal. Nel 1928 torna nella sua città, Alessandria, questa volta presso i nonni materni, ma dura poco. Dopo appena 1 anno viene rimandato al Cairo, ma questa volta in collegio. E poi di nuovo con lo zio, e poi di nuovo ad Alessandria con i nonni, e poi di nuovo al Cairo. Finalmente riunito al padre che è stato trasferito nella capitale. Ormai Gamal ha 18 anni e una volta conquistato il suo diploma sceglie di separarsi ancora una volta dalla famiglia iscrivendosi all'Accademia Militare. A Gamal piace la vita militare. In breve si diploma e passa direttamente nelle fila dell'esercito egiziano, dove diventa presto istruttore. Una missione molto stimolante: stare con i giovani, guidarli, insegnare. E fra gli insegnamenti più disparati ce n'è uno che Gamal non manca mai di impartire: l'odio verso gli inglesi. L'Egitto degli anni 30 è di fatto un protettorato inglese, sebbene formalmente non lo sia più dal 1922 e nel 1936 venga dichiarata la totale indipendenza del paese dalla Gran Bretagna. Ma dalla caduta dell'impero ottomano, gli inglesi in pratica decidono il destino politico, i governanti e soprattutto l'economia del paese, tenendo insieme ai francesi le redini dell'impresa più redditizia del paese, il canale di Suez. Il senso di oppressione della società civile egiziana accresce anno dopo anno, soprattutto tra le fila dei giovani ufficiali dell'esercito. A che serve essere brillante, pieno di energie, desideroso di coprirsi d'onore e gloria se il tuo paese è sotto il dominio di una forza straniera che decide tutto quello che riguarda la vita pubblica? A che serve se al potere c'è un re fantoccio e senza nerbo? Gamal Nasser è fra i giovani che mordono il freno. Il suo coinvolgimento con la politica non è recente. Già a 17 anni partecipa a una manifestazione anti-britannica, venendo anche ferito, arrestato e tenuto in prigione per qualche giorno insieme ad altri membri del Partito Socialista Egiziano. Un evento doloroso che però gli inocula la politica nell'animo. Una volta entrato nell'esercito, stringe grandi amicizie soprattutto con uomini che condividono con lui i suoi ideali. Primo fra tutti, Anwar Sadat, che rimarrà per sempre al suo fianco. Ed è sempre la politica che lo porta durante la Seconda Guerra Mondiale a prendere contatti insieme a Sadat, persino con agenti dell'asse, e a pianificare con i fascisti italiani un colpo di Stato per cacciare via gli inglesi. La cosa non si concretizza, ma lascia in Nasser il chiodo fisso per il colpo di Stato. Sarà solo questione di tempo. Il 1942 è un anno importante per l'Egitto. a soli 100 chilometri da Alessandria, a El Alamein, l'esercito italo-tedesco di Rommel e quello inglese, comandato da Montgomery, si affrontano in una delle battaglie più famose e sanguinose della Seconda Guerra Mondiale e che Rommel descrive così in una lettera alla moglie. La battaglia in furia e probabilmente sfonderemo ad onta di tutte le grandi difficoltà. Potrebbe anche darsi che naufragheremo. Nel qual caso tutto il corso della guerra ne verrebbe sfavorevolmente influenzato, poiché tutta l'Africa del Nord cadrebbe nelle mani degli inglesi. Quello che era umanamente possibile fare, io l'ho fatto, e non mi sono risparmiato. Dovessi rimanere sul campo di battaglia, desidero rendere grazie a te e al ragazzo per tutto l'amore e la tenerezza che avete voluto regalarmi nella mia vita. Nei primi giorni di novembre si consuma una tragedia che vedrà fra i tanti protagonisti anche il reparto italiano della Folgore, che si comporta da eroe tanto da meritarsi l'onore delle armi da parte degli inglesi. Gli egiziani seguono con interesse e preoccupazione gli eventi di quei giorni. Anche se non direttamente coinvolto nella battaglia, l'Egitto sa che se gli inglesi vengono sconfitti, le sorti del paese cambierebbero radicalmente. Intanto Gamal Nasser inizia ad accarezzare l'ipotesi di fondare un gruppo attivo. Tutti i giovani che come lui sentono il bisogno di reagire. Motore dell'iniziativa è quello che molti egiziani considerano l'ultimo sfregio degli inglesi alla sovranità egiziana. La sostituzione del primo ministro, sospettato di avere simpatie verso l'Africa Corps di Rommel, per insediarne uno solidale con gli inglesi. L'entrata a gamba tesa della Gran Bretagna nella politica interna egiziana riempie di sdegno tutta la popolazione e Nasser esprime perfettamente il comune sentire in una lettera scritta in quei giorni. Provo vergogna nei confronti del nostro esercito che non ha reagito contro questo attacco. Prego affinché una calamità faccia sparire gli inglesi. Alla fine della guerra, a cui l'Egitto non partecipa, Nasser, come abbiamo già detto, riceve l'incarico di occuparsi delle reclute. Questa si rivela una grande opportunità per Gamal. Affascinante e convincente, riesce a portare molti giovani ufficiali verso la sua causa, quella di insediare un governo più meritevole al posto di quello corrotto e inconsistente di Re Farouk. In breve, questo manipolo di giovani pieni di ardore si fonde in un gruppo che si autodenomina i liberi ufficiali, a cui ben si applicano le parole dello scrittore premio Nobel Naguib Mahfouz. È la nobiltà d'animo che ci permette di meglio conoscere l'universo. I liberi ufficiali, il movimento di cui Gamal Abdel Nasser diviene presto uno dei capi riconosciuti, ha sete di riscatto. Vuole piegare le leggi della politica a una modernità libera dal colonialismo. Ma la modernità non sembra proprio essere la priorità del governo egiziano, come Nasser ha appena scoperto. Nel 1948 scoppia la guerra con Israele, che ha appena celebrato l'indipendenza. Nasser viene spedito a Fallujah, in Palestina, e lì può solo constatare, con tristezza, l'assoluta impreparazione delle forze armate egiziane. I nostri soldati vengono letteralmente gettati contro le fortificazioni. La guerra si conclude con la schiacciante vittoria degli israeliani e la consegna di Fallujah da parte degli egiziani. Al suo ritorno al Cairo, la delusione spinge Nasser a legarsi in modo definitivo al gruppo dei liberi ufficiali e pensare solo al momento dell'insurrezione. Ma non c'è solo la guerra e la politica in quei giorni nella sua vita. Anche se è febbraio, è una serata piena di dolcezza al Cairo. L'aria è piena di profumi. In lontananza si sente il canto di un muezzin e il traffico, nell'elegante quartiere di Zamalek, arriva attutito, come se avesse paura di disturbare le imponenti ville del quartiere. Alcuni dei liberi ufficiali, appena tornati dalla Palestina, sono stati invitati a una soirée elegante. L'ospite è una famosa cantante che durante tutta la guerra ha seguito con trepidazione il destino degli ufficiali. In loro onore ogni giorno inviava il giovane nipote Eddou Souk a informarsi sulle loro sorti e soprattutto a conoscere i gusti musicali dei soldati, le loro canzoni preferite, per poi omaggiarli cantandole alla radio. Una sorta di dichiarazione ammirata, come ammette la stessa cantante, nei confronti dei valorosi ufficiali egiziani. In effetti, Era come se vivessi accanto a loro, con tutta me stessa. Nasser si tiene discosto in un angolo. Osserva il ricevimento, ma rimane silenzioso. Nonostante la rapida carriera militare, rimane un giovane della piccola borghesia egiziana che oggi si ritrova nel salotto di una donna importante, che canta nei migliori teatri del paese, così come davanti allo stesso re e alla sua corte. Invece Gamel non ha mai fatto parte dell'elite e nonostante abbia girato il paese e sia stato anche all'estero, prova ancora una sorta di imbarazzo di fronte ai salotti buoni. Eppure quella famosa cantante lo affascina. Le canzoni che interpreta parlano al suo cuore. Le parole che pronuncia nella sua lingua sembrano ancora più dolci e lo fanno sentire orgoglioso del suo paese e della sua cultura. L'intonazione appassionata lo riempie di ardore e coraggio. E in lui si fa strada il pensiero che, come sta accadendo in quel momento per lui, anche per i suoi fratelli egiziani, nella miseria della loro situazione attuale, ci sia bisogno di emozioni forti, di ritrovare l'orgoglio nazionale, di radunare ardore e coraggio per liberarsi. Quella cantante giocherà un ruolo importante nel progetto di Nasser per un nuovo Egitto. Tra poco, a Destini Incrociati. Hope you find your way. Welcome to the cruel world. Hope you find your world. Destini incrociati. Tè alla menta, liquori, aliti di vento che portano nelle ampie stanze il profumo del Nilo che scorre lentamente, inesorabilmente, al centro della corrotta capitale d'Egitto. A Destini Incrociati siamo nei salotti di una famosa cantante che ha organizzato una serata in onore dei liberi ufficiali, un gruppo di militari che si è coalizzato con lo scopo di garantire al paese un futuro indipendente dall'influenza colonialista della Gran Bretagna. In un angolo, il giovane ufficiale Gamal Abdel Nasser ascolta rapito la performance della padrona di casa che canta una canzone d'amore accompagnata dai suoi musicisti. La donna, grazie alle sue straordinarie qualità canore e al grande carisma, è la cantante più apprezzata dell'Egitto e tutto il paese ne conosce il nome. Um Kalsum. Nella realtà era normalissima, quasi fragile, insignificante. Io mi dicevo, questa è Um Kalsum, non è possibile. Ma quando saliva sulla scena, giuro che non so se fosse un dono del cielo, ma la sua voce la trasformava. Diventava grande, non so se bella, ma imponente. Diventava come i faraoni che si rispettano. Diventava faraonica. Una delle migliori amiche di Neila Ben Ammar, ricorda questa donna severa, di grande carattere e carisma, che dal nulla è diventata un'artista importante nel suo paese. Una donna capace di impressionare indelebilmente con la sua personalità la coscienza indipendentista del giovane ufficiale Gamel Abdel Nasser. Sono una donna, una contadina, un'egiziana. Così Kalsum Ibrahim al-Sayyid al-Baltai, questo è il suo nome completo, si presenta al suo popolo. Donna in un paese e in un'epoca in cui le donne hanno il destino segnato dal lavoro e dalle gravidanze, senza alcun diritto ad avere una voce. Contadina di nascita e orgogliosamente fedele alle sue radici popolane. Egiziana fin nelle ossa, prima inconsapevolmente e poi via via sempre più desiderosa di legare il suo destino a quello della sua terra. Questa è l'artista che unisce il suo nome a quello della strada verso l'indipendenza egiziana. Nasce in una data imprecisata fra il 1898 e il 1904 da una modestissima famiglia di agricoltori del delta del Nilo. Il suo è un villaggio minuscolo, fatto di poche capanne e di qualche animale lasciato libero di passeggiare fra le misere case. Il padre è l'imam, vale a dire la guida spirituale o in questo caso il semplice depositario dei riti religiosi del villaggio. A lui l'incarico di recitare il Corano e di fare osservare la preghiera. La madre, nelle ore che il lavoro gli lascia libere, insegna a cantare alla sua bambina. Presto si rende conto delle doti della figlia e inizia a portarla con sé nei villaggi vicini e a farle interpretare canzoni religiose. A 10 anni, Umm, vestita da maschio, porta la parola del profeta in giro per la regione. Alla sua età ha già imparato a memoria l'intero Corano e lo recita con voce ferma e armoniosa. Quando Umm ha 16 anni, il suo talento è tale che il padre decide di portarla al Cairo a tentare la fortuna, che non arriva subito, non per mancanza di bravura, quanto di gusti musicali. Sarà l'incontro con il poeta Ahmad Rami a consacrarla nel panorama musicale egiziano dell'epoca. Rami, fine traduttore di Shakespeare, oltre che poeta, scrive per Umm ben 137 canzoni. Canzoni di amori perduti e ritrovati, di sentimenti appassionati, di emozioni inespresse. Chi li ascolta ne viene conquistato. In breve Umm diventa la cantante più famosa d'Egitto, tanto da essere ricevuta persino alla corte di Re Farouk, che la insigne della decorazione egiziana più importante, l'Ordine dell'Eccellenza. Ma quando lo zio del re si invaghisce fino a chiedere la mano della celebre cantante, le convenzioni care all'aristocrazia cairota impediscono che il matrimonio si celebri. Umm rimane pur sempre la figlia di un contadino del Delta. Se l'amor proprio della cantante soffre per il rifiuto, l'orgoglio per essersi fatta da sola, di essere quello che è, una donna, una contadina, un'egiziana, non abbandona Umm Kulthum, che si sente molto più vicina ai soldati impegnati a Fallujah nella prima delle guerre arabo-israeliane che ai dissoluti notabili di Re Farouk. E sono le sue canzoni che l'ufficiale Gamal Nasser, insieme ai suoi compagni, ascolta nelle lunghe notti palestinesi trascorse in attesa del nemico. Il presente è quello che soffriamo, il futuro è quello in cui speriamo, il passato è ciò che ci è caro, che sia buono o cattivo. Il tempo, che sia quello che soffriamo o quello che speriamo, come recita lo scrittore Nahib Mahfouz, trascorre e nel caso dell'Egitto porta inesorabilmente alla maturazione della rivolta. Nel luglio del 1952 il piano lungamente sognato da Nasser e i suoi compagni ufficiali si compie. Contro la corruzione, il malgoverno e lo strapotere degli inglesi, in Egitto una rivoluzione senza spargimento di sangue in pochi giorni spedisce in esilio Re Farouk e porta il paese verso un'indipendenza a lungo sognata. Anche se Nasser è l'anima della rivoluzione, diventa primo presidente del nuovo Egitto il generale Nahib. La rivoluzione è incruenta, ma burocrati più realisti del re credono di soddisfare gli ufficiali epurando figure importanti della passata amministrazione. Fra queste c'è anche Umm Kulthum, rea di avere conosciuto troppo da vicino la famiglia reale. La radio di Stato decide di abolire i rituali concerti tenuti dalla cantante ogni primo giovedì del mese. Quando la notizia giunge all'orecchio di Nasser, questi fa chiamare il direttore dell'emittente, che giustifica la decisione sostenendo che Umm è uno dei simboli della monarchia appena sconfitta. Ma la risposta di Nasser ha il sapore di una scudisciata. Allora ditemi, se pensate che Umm Kulthum appartenga al periodo della monarchia destituita, perché non fate lo stesso con il Nilo e le piramidi? Non sono anch'essi da considerarsi vestigia del passato? Eliminare il concerto del giovedì è infatti come eliminare le piramidi o il Nilo. Ogni egiziano che fosse al Cairo o in un remoto villaggio lungo il Nilo in quei giovedì si avvicina al suo apparecchio radiofonico con l'attenzione profonda che normalmente rivolgerebbe a un predicatore, perché in questo caso Umm è una specie di predicatrice e le sue parole predicano l'amore. Per ascoltare Umm bisognava aspettare il primo giovedì di ogni mese, quando veniva trasmessa alla radio e non si sapeva che canzone avrebbe cantato. E dato che a quei tempi non era permesso poter uscire con le ragazze, le sue canzoni che tanto parlavano di amori sfortunati spezzavano il cuore, perché non ci si poteva incontrare, non ci si poteva toccare. Dunque lei nutriva il nostro sogno di stare un giorno con una donna, rappresentava il nostro desiderio, un giorno, di amare. L'attore Omar Sharif era uno di quei giovani che attraverso le canzoni di conoscevano l'amore. La grazia dell'interpretazione di apre i cuori alle emozioni, fa sgorgare il sentimento che vola alto nel cielo come una colombella fragile e immacolata. Attraverso le canzoni dell'artista, la lingua araba si ricopre di miele, le parole si offrono trepide all'orecchio di ogni uomo e di ogni donna. Che canti in arabo classico o nel dialetto comunemente usato dal popolo, le sue capacità e la sua bravura sono tali che vengono coniate nuove parole per definire il suo canto, per qualificare le emozioni che riesce a smuovere. La folla si commuove fino a raggiungere il tarab, una parola araba che descrive un piacere che conduce quasi all'estasi. Esiste un termine in arabo che esprime questo stato, che è il tarab, che alcuni traducono come l'estasi musicale, un piacere prossimo alla meraviglia. Il poeta e storico palestinese Elias Sambar è fra i tanti estimatori della cantante, ma fra tutti uno solo ha stabilito con un rapporto che negli anni è divenuto il perno attorno al quale ha ruotato un'intera nazione, e costui è Gamal Abdel Nasser. Dal suo rifiuto di allontanare dalla radio, fra i due nasce una collaborazione che continuerà per più di 20 anni. Nasser intuisce che è proprio di simboli che il nascente Egitto post-rivoluzionario ha bisogno, e nessuno meglio di Kalsum può incarnare il bisogno di rialzare la testa dopo decenni di sottomissione. Kalsum è già una cantante venerata dagli egiziani, dunque associare la causa rivoluzionaria a una donna intrepida e orgogliosa come lei, una donna capace di soggiogare l'attenzione di milioni di persone, è la soluzione che Nasser intravede con la lungimiranza che gli è propria. Perché vietare alla radio i concerti di quando la città si svuota per andare a sentirli davanti alla radio di casa? Nasser, con un'intuizione geniale, decide di precedere proprio i concerti di con i suoi annunci al popolo. E la collaborazione non finisce qui. È che aiuta Nasser nella sua scalata alla presidenza, in sempre più aperta contrapposizione al generale Nahib, cantando canzoni propagandistiche a ogni comizio di Nasser. Lo fa con piacere, vista l'ammirazione che ha per il giovane colonnello, ma anche perché l'appoggio di Nasser determina una seconda fase nella sua carriera che la porterà a scalare vertici fino ad allora inesplorati, diventare la voce dell'Egitto indipendente. Dopo essere scampato a un attentato, Nasser riesce a conquistare il potere diventando il secondo presidente dell'Egitto nel gennaio del 1956. Poco dopo la sua elezione a presidente, Nasser decide di compiere lo strappo definitivo nei confronti della Gran Bretagna. Il presidente ha deciso di nazionalizzare la compagnia internazionale per il canale di Suez. Lo strappo non è improvviso. Già dai tempi della rivoluzione, Nasser tiene a dimostrare che l'Egitto libero non si farà comandare dall'Occidente. Dopo la rivoluzione, l'America ci ha chiesto, per ottenere il suo sostegno, di restare all'interno dei nostri confini e di non interferire con gli altri paesi arabi. Noi abbiamo rifiutato, perché crediamo che gli arabi siano una sola nazione. Tutto ciò che accade in una delle nazioni arabe coinvolge tutti gli altri paesi arabi. Se anche solo uno dei paesi arabi finisce sotto l'influenza colonialista, questo succederà anche agli altri stati arabi. Noi crediamo che questa solidarietà sia una cosa buona, sia per l'Egitto che per le altre nazioni arabe. La questione del canale di Suez pende dall'epoca in cui il canale venne aperto, fra il 1859 e il 1869. L'impresa, sognata e tentata sin dai tempi degli antichi egizi, viene portata a termine dal diplomatico francese Ferdinand de Lesseps, basandosi sul progetto dell'ingegnere trentino Luigi Negrelli. Inizialmente il canale ha il 44% di proprietà del Khedive d'Egitto e per il resto di una società per azioni francese. Ma in seguito alla crescita del debito estero, l'Egitto è costretto a vendere la sua fetta agli inglesi, che dopo essere intervenuti durante una sommossa popolare nel 1882, di fatto si installano stabilmente in Egitto fino alla rivoluzione del 1952. Con un volume di affari che in breve tempo cresce esponenzialmente, il canale di Suez, dichiarato dalle nazioni occidentali libero e aperto in tempo di guerra come in tempo di pace a qualsiasi nave civile o militare, senza distinzione di bandiera, per decenni si rivela uno degli investimenti più vantaggiosi per i ricchi borghesi in Francia e in Gran Bretagna. Una ricchezza a cui il popolo egiziano non ha mai avuto accesso. Gli egiziani hanno scavato il canale di Suez e durante i lavori più di 120.000 sono morti. Per questo il canale appartiene all'Egitto. Con queste parole, il presidente Gamal Nasser dà avvio alla nazionalizzazione del canale, con la giustificazione che i fondi sarebbero serviti per costruire la diga di Aswan. È una mossa temeraria che però riesce in pieno. Nel giro di pochi mesi, la nazionalizzazione viene riconosciuta dalle Nazioni Unite. L'entusiasmo del mondo arabo è alle stelle e fra le mille voci entusiaste sorge ancora la voce di Umm Kulthum, che Nasser sceglie di mandare in onda subito dopo l'annuncio con una canzone che diventerà una sorta di inno nazionale. È la consacrazione di Umm, che ricambia ancora una volta commentando entusiasticamente la decisione di Nasser. Noi tutti siamo testimoni della nascita di un nuovo Egitto e dunque su tutti noi incombe il dovere di giocare un ruolo in questo. E quando ho saputo che il presidente Nasser si accingeva a costruire la diga di Aswan per estendere la superficie agricola dell'Egitto, mi sono ricordata queste famose parole di Napoleone Bonaparte. Se fossi io il re di questo paese, non mi lascerei scappare neanche una goccia del fiume Nilo. È in questo momento che mi sono resa conto che il progetto di Nasser avrebbe potuto salvare l'Egitto. Con la nazionalizzazione del canale di Suez, l'alleanza fra Nasser e Umm Kulthum diventa totale. Davanti a ogni momento difficile che attraversa il paese, sembra che il presidente e la cantante parlino con la stessa voce. Una voce potente, che il popolo ascolta con reverenza e fiducia. Destini incrociati. Nell'Egitto dell'era moderna, un uomo e una donna diventano i simboli dell'indipendenza e dell'orgoglio ritrovato. Sono Gamal Abdel Nasser, presidente e padre della rivoluzione del 1952, e Umm Kulthum, la stella della musica araba, l'astro d'Oriente, la quarta piramide. Insieme sono la coppia, simbolicamente parlando, che rappresenta il mondo arabo che si libera della colonizzazione e diventa potenza riconosciuta e rispettata dal mondo intero. Fra gli anni 60 e 70 bastava chiedere a qualsiasi abitante del Cairo cosa fosse l'Egitto per ottenere una sola risposta. L'Egitto è Nasser, Umm Kulthum e le piramidi. Se Nasser è un padre della patria, Umm viene considerata come uno stato nello stato, detentrice di privilegi ad altri impossibili, come quello di essere dispensata a vita dal pagamento delle imposte dallo stesso presidente. Nel suo libro La voce d'Egitto, la musicologa americana Virginia Danielson definisce così Umm Kulthum. Immaginate una cantante con le capacità virtuosistiche del soprano Joan Sutherland e della jazzista Ella Fitzgerald, la statura pubblica di Eleanor Roosevelt e il seguito di Elvis Presley. Ed ecco a voi Umm Kulthum. Umm ha il carisma necessario per interpretare i desideri del presidente Nasser, che sono quelli di creare una forte coesione culturale fra tutte le genti d'Egitto. Dans sa carrière, elle a chanté des poèmes. Nella sua carriera ha cantato anche dei poemi e in questo modo ha insegnato l'arabo al popolo, che non conosceva la lingua colta e letteraria e che quindi, per comprenderla, si metteva a studiare l'arabo classico. Come sottolinea l'attore Omar Sharif, Umm Kulthum fa cultura, educando con le sue canzoni intere generazioni di egiziani che non sanno né leggere né scrivere, ma che tutti i giovedì sera si mettono ad ascoltare Umm alla radio. E facendo cultura, Umm adempie al piano modernizzatore di Nasser. E lo fa in modo autonomo, senza scimmiottare gli stili occidentali, senza inquinare le peculiarità arabe con simboli importati. Il che non vuol dire rifugiarsi in quei fondamentalismi islamici tanto estranei alla Kulthum quanto al presidente Nasser. Anzi, in un'epoca dove le donne arabe parlano poco, Umm dà voce a un'intera classe sociale fino ad allora negletta. Lei stessa è un esempio per tutte le femmine egiziane. Alta, dritta, con un lungo fazzoletto nella mano durante ogni sua esibizione, Umm rappresenta al meglio la dignità e la forza della donna araba. Ma soprattutto Nasser e Umm incarnano la speranza, Entrambi sono due prodotti del vasto e misero popolo egiziano che sono riusciti a scalare la vetta della più impervia delle piramidi, quella sociale, diventando durante il tragitto sorella e fratello, oltre che icone del nuovo mondo arabo. Time of your lives, it's the time of your lives. Break down, break down. Gotta spread love around, gotta spread it all around. Ma nel 1967 tornano i momenti difficili. Israele sferra un rapidissimo attacco all'Egitto e in soli 6 giorni ne sconfigge l'esercito, conquistando la penisola del Sinai. Per il paese è l'umiliazione più totale. Nasser decide di agire onestamente con il suo popolo, rassegnando le sue dimissioni. Ma mai, come in questa occasione, le sue parole si trasformano in una poesia che conquista il cuore degli egiziani. Fratelli, siamo stati abituati a riunirci e a discutere con l'animo aperto, sia i bei tempi della vittoria che quelli duri e difficili, e a dichiarare onestamente i fatti. Abbiamo sempre creduto che questo fosse l'unico sentiero giusto da percorrere. Indipendentemente dalla difficoltà e da quanto fioca fosse la luce alla fine del tunnel. L'intero paese segue il discorso del suo presidente. La gente è devastata e fra essa anche Umma. Per questo non possiamo negare che abbiamo sofferto una dura sconfitta nei giorni scorsi. Ma ho fiducia che riusciremo a superare le nostre difficoltà in breve tempo, sebbene ci sia bisogno di molta pazienza, saggezza, coraggio. È un duro lavoro davanti a noi. Coraggio. Ecco quello che Nasser chiede al suo popolo, ma soprattutto a se stesso, per affrontare un momento così difficile. E il popolo risponde e scende in piazza per chiedere che il presidente ritiri le dimissioni. Anche Umm Kulthum risponde all'appello del suo presidente a suo modo. E pochi mesi dopo la disfatta, con coraggio, si lancia in un tour che la porta nei principali paesi arabi con lo scopo di chiedere aiuti per il suo paese. E per la prima volta arriva fino in Occidente, per un grande e unico concerto che si tiene all'Olimpia di Parigi. Al concerto partecipano tutti, sia gli arabi della capitale che i politici e gli attori francesi più famosi dell'epoca, fra i quali c'è anche l'attrice Marie Laforêt. Non ho mai visto nessun artista ottenere un grado di devozione simile a quello che aveva lei. Anche Omar Sharif è presente a quel concerto in cui Umm canta al limite delle sue capacità. Entrava come in trance. Quando iniziava la sua canzone, le succedeva qualcosa, cambiava. Si metteva a cantare ripetendo la stessa frase musicale 10-12 volte, ogni volta con una variazione, una differenza, e la gente impazziva. Lo stesso generale de Gaulle invia un biglietto a Umm Kulthum commentando la serata in termini entusiastici. Ascoltando la sua voce, il mio cuore ha tremato come quello di tutti i francesi. Umm è in Russia quando nel 1970 apprende che Nasser è morto improvvisamente per un attacco cardiaco a 52 anni. È la fine. Se per l'Egitto muore il padre della Repubblica, per Umm è qualcosa di più. Muore suo fratello, suo padre, la sua patria, la sua guida, il suo verbo. E quindi anche la sua voce inizia a declinare, perde potenza, si contrae nel dolore della perdita. Al funerale del Rais d'Egitto, Umm canta una delle ultime volte e le sue sono parole d'amore. Tu hai fatto rinascere in me l'ardore della passione, con le tue parole dolci e tenere. 5 anni dopo, Umm si spegne nella sua villa, senza avere mai più ritrovato la forza di cantare. L'Egitto ha avuto 2 grandi idoli nel XX secolo che l'hanno stregato con la voce e le parole, Gamal Abdel Nasser e Umm Kulthum. Il primo con la sua risata e le frasi ingenue, la seconda con il suo timbro grave e profondo. Alla loro morte l'Egitto ha sotterrato le sue speranze e i sogni di grandezza, ritornando alla sua letargia millenaria. È l'analisi che fa sulle pagine del quotidiano Libération il giornalista francese Christophe Ayad, considerando il momento in cui il simbolo di Umm e Gamal si spense. E da lì a poco si spegne anche la grande speranza di diventare uno stato indipendente e moderno, lasciando il posto, dopo l'uccisione del successore di Nasser, Anwar Sadat, alla trentennale dittatura di Hosni Mubarak e al lungo silenzio della libertà. Fino a una nuova rivoluzione, che però è ancora in cerca di simboli, come lo è stata Umm.